canna bell'anna, profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde, quando il suo amante dal mare la vede. Anna bell'anna, sono tornato, ti voglio stringere forte sul cuore, sul cuore. Ti voglio sciogliere i lunghi capelli e sulla spiaggia fare all'amore. Anna bell'anna, legge la sorte, un sasso nero le brucia le dita, le dita, le dita. Tira le pietre per sette volte, sa che l'amante suo l'ha tradita, sa che l'amante suo l'ha tradita. La sabbia si lascia amare. Anna bell'anna, ti chiedo perdono d'aver tradito il tuo caro amore. Laggiù dal mare, senza ricordo, per troppe volte ho perso il cuore. Anna bell'anna, profuma di salvia, contro il suo petto si stringe vicino. Gli dice, il cuore non l'hai perduto, e glielo cerca col coltellino. Anna bell'anna, il cuore che batte, lo butta in mare a fare corallo, corallo, corallo, corallo rosso come la fiamma, perché nessuno possa rubarlo. Anna bell'anna, si annodi i capelli, si lava il viso e le mani nell'ombra, e sulla riva si china a cercare sassi dorati e conchiglie rotonde, sassi dorati e conchiglie rotonde.